ciao, come stai, bevi qualcosa. Grazie, ciao, ma devo andare. Ma dove vai, che là fuori è una giungla? Serpenti e liane col topicello. Come dici, hai quattro mogli, sette figli che aspettano nelle loro casse di marzapane. Amici dodici che si butterebbero dal ponte, privati del tuo consiglio illuminante. Allora ascoltami bene, il mondo ruota e ruoterà anche senza noi. Impara a farti i cazzi tuoi, vivrai meglio, stai anche noi, noi anche noi. Ehi, ma ciao, come stai, bevi qualcosa. Grazie, ciao, ma devo andare. Ma dove vai, che fuori di qui c'è l'autostrada, turmini abbandonati e con i tedeschi su volo. E dici che hai colleghi competenti ed un capo scemo che canta l'ostrega, e devi andare per sistemare una seta perché la tenda non abbia cedimenti. Allora ascoltami bene, il mondo ruota e ruoterà anche senza noi. Impara a farti cazzi tuoi, vivrai meglio. Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota. Sì, vabbè, hai voglia ad aggiungerli tutti.